Ascoltatrici, ascoltatori di Radio Exalge, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Casa da Paes Radio Edit. Radio Exalge ospita questi 60 minuti di musica, soprattutto ascolto di cosa viene prodotto oggi sotto la grande campana del jazz e della musica sperimentale, strumentale. Io sono Nina Terruzzi, se volete mettervi in contatto con me potete scrivermi a casadapaes@gmail.com, mentre sui social ci trovate sia su Instagram che su Facebook cercando Casa da Paes oppure cercando notizie di questo spazio magico che è Exalge a Milano. Il primo brano che ascoltiamo stasera si intitola A Blooming Bloodfruit in a Hoodie ed è tratto da Origami Harvest, un disco del trombettista Ambrose Akinmusiru, trombettista afroamericano attualmente tra i più rispettati e apprezzati dalla critica a livello internazionale. I suoi lavori sono spesso impegnati anche a livello politico, questo disco lo è e stasera partiamo da qui. Son of the Aquarius, Scorpion water flow. The soul infinite, never mind, who cares? I'm getting lit up in expensive whips that a young player used to fucking dream about. Breathing in angels, breathing the demons out, even the feelings out. Remember the struggle and fucking learn from it. Or at the very least, earn from it. Make it fucking worth known. Gaze at the cursed bone carriages encased in the worst known. Toxic ideologies, vision of vaccine, a cure even. The blurred reasonings rearing their heads like a hydra. Blood in my eye, bruh, and I can't see. But I still lead like a one-eyed king. up in the land of the blind, bruh. I got my man on the line, he got one last job for a player. The sun blast raw star flavor on the highs of all of our neighbors. On this rock we be spinning all winter, fall, summer, spring. Various degrees of the varying heat emanating off of the very thing all life sprung from. Hung, dumb, deaf, blind, silent in the cold, dead black of the void. I'm snapping, I'm macking, I'm cracking, boy. I'm gassing, I'm blacking out, ask about me. Shit. Sit back, laugh about it, weep about it. You couldn't creep around it. So high, you can't get over it. So low, you can't get under it. So whole, you can't add to it, multiply it, divide it, subtract from it. Overstand the math of the challenges, provinces, hamlets, townships. Please slide through the avenues. Everything's everything. Understand my songs are just phrases and sentences. Every last song is a long sigh, a breath in the middle of one single run-on sentence. Every last bar I meant it. Run it back, hear it again. That's everything. We are the universe, learning to love itself, swirling in color and light. Sound waves swimming through gravities. Existence is a network of magnetism, rolling hypnosis. Fingers in the air, feel the cosmic curvatures, overture written in the air like a cool breeze. Enter the second movement, repetition is a form of change. I'm home on the range where the deer and the antelope play. I got a cantaloupe sliced up, juicy as a vision, twice as sweet. I'm high as a peach in a peach tree, blessed with the lessons the earth teach me. Rap is a natural way of speaking. Rhyming is more than a mnemonic device. It's the true nature of language. The way it was meant to be spoken. Nah, I'm joking, I'm bullshitting, man. Nothing is anything. Everything I say feels beautiful. Listen to the tunes, they truly rock beautiful. Music is musical, amusingly musing on a topic or two or more. I don't even know why I do it for it. Dog, I'm a blues boy, jazz dude. Rapping a bar with the casual manner of a man who be asking about your tattoos and their significances. Listen to the different changes. We live in the cages, arranged in a strange, sick pattern. We made them ourselves with our anguish, and they will decay and disintegrate. Love only loves, it could never begin to hate. Freestyle shows, but the writtens I print a tape. Give them a little thing to remember me by, a little keepsake, a little memento. The honorable, venerable, animal, mineral, vegetable, respectable, anything, anything. Say the first thing that pop into my little dome piece. Spit poems into your phone. Yeesh, leave a message, begin at the tone, the beat. Trail off, thinking how it ought to be said. Am I even alive, man? I gotta be dead. Yes, y'all in it, don't quit. Chiba, chiba, y'all in it, don't stop. And it don't quit. Yes, yes, y'all, and it don't stop. Cheaper, cheaper, y'all, and it don't quit. Yes, y'all, and with the best of all of them. Gang shit, throw your set up. Please slide through the avenue, diagonal. Pussies get wetter. America, Americana, America now. Please slide through the avenue, diagonal. Yes, y'all, and it don't stop. Cheaper, cheaper, y'all, and it don't quit. To the beach, y'all, and it don't stop. And it don't stop. The rockin' to the bang bang boogie, the bang bang, the boogie, the beat. Yes, y'all, I'm with the best of all of them. Cheaper, cheaper, y'all, and it don't stop. Freak, freak, y'all, and it don't stop. Real hip hop, and it don't stop. Yes, y'all. To the beach, y'all, and it don't stop. Freak, freak, and it don't stop. Real trash shit, gang gang. Trash shit. Gang shit, thought you said that. Woo! Brr! Brow, brow, brow. Pussy getting wet up. Ambrose Akin Musir da Origami Harvest, questo era A Blooming Blood Fruit in a Hoodie, mentre il prossimo pezzo è un po' più light, si tratta di Taking Flight, tratto da Reservoir, disco che porta il nome di questo collettivo di 18 elementi che viene da Chicago, è il loro primo disco e alla guida del progetto c'è Will Miller, produttore, arrangiatore e qui anche musicista che suona la tromba, il sintetizzatore, il piano, i campionamenti e il Wurlitzer. Taking Flight. Subito dopo Taking Flight, il singolo tratto dal disco Spirit Rejoin degli Aldumen the Ferrets, era Weed and Love, gruppo che si aggira tra Loreto e Lambrate a Milano e che ha base nello studio Il Guscio. Il prossimo pezzo è invece Love and Protest del sestetto Triple Double di Thomas Fujiwara, triplo doppio in quanto gli strumenti di questa band sono tre coppie, due batterie, due chitarre e due trombe, solo numeri 1, Gerald Cleaver, Mary Alverson, Brandon Seabrook, Taylor Hope Binum e Ralph Alessi. Love and Protest. Amore e protesta, il messaggio del triple double di Thomas Fujiwara. E ora ci spostiamo a Pavia, dove è stato registrato il disco di Totem, un duo composto da Ned Ferm al sassofono tenore agli effetti ed Emanuele Maniscalco alle tastiere, alla batteria e agli effetti. Questo disco è stato appunto registrato a Pavia e porta il nome di questa città. È stato registrato nel 2017, pubblicato nel 2019 e da questo disco ascoltiamo Barn Dance. Thank you. E rimaniamo in parte in Italia con il quintetto di Federico Calcagno, che è un clarinettista milanese, che però ha vissuto ad Amsterdam e qui ha riunito questo gruppo che si chiama Liquid Identities. È un disco molto bello. Ascoltiamo da qui Blame. Thank you. uma terra em transe fundamentada na exploração física e mental. Entradas e bandeiras do genocídio. A um imenso território cujos habitantes primordiais foram e são dizimados em nome do progresso civilizatório. E o nome de Deus sempre envolvido. Aos 300 anos de tráfico negreiro, a abolição pífia e seus reflexos reluzentes no agora. Há a tradicional ideia do país do futuro, que ignora solenemente o presente e o passado. Há os planos econômicos e os lucros estratosféricos dos bancos. Os miseráveis e os privilegiados, determinados a nunca largar o osso. Aos períodos democráticos pontuados por totalitarismos tropicais. Aos conluios. Os combinados prévios que preservam cabeças e cargos. A constância dos favores trocados. A impunidade, o peso de duas medidas. O abuso. A disfarçatez, os estômagos embrulhados, as táticas de guerra entre narrativas. Há um país que, reduzido às cinzas, acaba uma série de vezes, renascendo dos resquícios, com as asas de fênix hesitante. Diante do abismo. Liquida Identis di Federico Calcagno con Blaine, dopo di lui Lucy di Roger Rota, sassofonista e compositore di questo disco che si chiama Reality in Illusion, ispirato dal film Le Voyage Imaginaire di René Clair del 26, con lui a suonare Marco Colonna al clarinetto basso, Francesco Chiapperini al sax contralto al clarinetto e Stefano Grasso alla batteria. Dopo Lucy abbiamo ascoltato Fenix Hesitante, Fenice Hesitante del duo brasiliano Buffo Borealis. Il loro disco si chiama Pupilas Horizontais. Questa è sempre Casa da Paes Radio Edition che sta arrivando alla fine. Vi lascio infatti con un ultimo brano, ringraziandovi dell'ascolto, dandovi appuntamento a settimana prossima, sempre di venerdì, sempre alle 19, sempre su Radio Exalge. Il brano con cui vi lascio è del quartetto di Lucas Guerra, Aka, Francesco Panconesi, Alessandro Mazzieri, Carmine Cascello lo accompagnano, e così vi auguro una buona serata e vi raccomando di tenere accesa la radio. Ciao! Thank you.